24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori, il bagno alla turca! Avendo trattato personalmente Tangentopoli 20 anni fa, potrei dire che la gran parte delle caratteristiche è simile, per non dire uguale, anche molti protagonisti sono gli stessi. Questo è un sistema peraltro molto più sofisticato, molto più difficile da scoprire. Non cambia nulla, cari italiani, non cambia nulla, come dice Carlo Nordio, che è il procuratore che a Venezia sta facendo, ha fatto questa valanga di arresti. Non cambia nulla, però se leggete i giornali dice: ora basta, ora guerra alle mazzette, ora bisogna, ma ora che cosa, ma ora che cosa? Siamo un popolo corrotto, siamo un popolo di corrotti, siamo un popolo di corruttori, altro che poeti, santi, navigatori. Mamma mia, ragazzi. Col garantismo, col garantismo dovuto. Anzi, io voglio salutare subito Vincino. Saranno tutti assolti, Vincino, vero? Eh? Tutti assolti, no, saranno. No, tutti no, però qualcuno. Ma perché sono tutti colpevoli già? Cioè, no, no, no. Avete decretato che sono tutti colpevoli? No, no, cioè, non no. Lo so, dico, come dire, ecco, io sono molto più ottimista di te, assolutamente. Cioè, fai una percentuale, anzi, quanti su 35? No, no, ma il su mio 35. Era un altro, era sì. Un altro. Tu lo sai la difficoltà? Perché da 40 anni a 30 anni non riusciamo a fare nessuna riforma di tipo istituzionale? Perché là non c'è cemento, perché praticamente non essendoci cemento e cose, no, non c'è la mazzetta, sono, no, non ma c'è non la mazzetta. C'è, prima non c'è, come dire, vengono degli sgorbi pazzeschi, no, la riforma c'è, la cosa. Sì. E poi non ci sono gli aiuti dall'esterno che migliorano la cosa, no? Gli aiuti dall'esterno che migliorano la cosa. Ma la politica è questa, come dire, in un certo senso, no? Ma è lo stesso in Germania, in America, in Inghilterra, non è fatta di questa materia qua. Cos'è che hai fatto tu oggi? Hai fatto Galan beccato da il Mose, beccato dalla tavola delle leggi, il Mose. Vabbè. E poi lui che esce dalla come dire, poi peraltro come questa cosa qua che non si è di un ordine che dice è così difficile, no, è facilissimo, come dire. Stai facendo un'enorme opera pubblica, e allora c'hai il sindaco, c'hai il capo della regione, c'hai gli assessori. È facilissimo. Che cosa è facilissimo? Sei diventato. È facilissimo beccare, no? Perché se fai un'opera pubblica. Ma che sei enorme, diventato giustizialista? Ma non sono assolutamente. Ma alle 6:31 eri garantista. Ma sono garantista, assolutamente. Ah, però, come dire, cioè sono anche autore di satira, realista. Ah, no? C'è un'enorme opera pubblica che dura 30 anni, no? Sì. Ci sono gente che sono il sindaco, il coso, è facilissimo. A Palermo non c'è nessun'opera pubblica non c'è mai stata nessun'opera pubblica negli ultimi anni. Perché? Per paura che ci sia l'ultima opera pubblica è il Monte Pellegrino fatto nel Mesozoico in epoca di qualche cosa, milioni di anni fa. No, esattamente. Per paura della mafia non si è fatto nulla. No. Non si è fatto nulla. Il Mose invece, come scrive oggi Gian Antonio Stella, è stato costruito, viene costruito c'è il maggior numero, insomma, sì, 9 volte il tempo per cui ci ha messo a costruire un ponte di 32 chilometri in Cina, il ponte di Donghai. Va bene, saluto Miriam Lucchetti in redazione, Pietro Lacorte in regia, apra il Parlamento, che c'è anche la nostra Aurora, la nostra Aurora Lussana, il caffè volentieri a tutti quanti, la nostra Aurora Lussana con Salvini che dice: Aurora, buongiorno. Salvini dice: che consolazione, non c'è nemmeno un leghista stavolta, almeno, no? Sì, io aggiungo, per fortuna che c'è Luca Zai a governare la regione Veneto. Eccolo, noi lo avremo ospite, eccolo, io ce l'avrò ospite. Le ultime parole famose, poi passeranno alla storia come le ultime parole famose. No, dai, perché? Perché in una regione si costruisce un'opera immane, il presidente della regione non ne sa niente. È partito Vincino, è partito Vincino. Ecco, dai, era garantista alle 6:30, adesso anche Zaia dobbiamo... Dai, è garantista ma autore di satira, Aurora. Io tra l'altro lavoro ospite alle 8:30, Luca Zaia. Come mai? Che fortuna. Radio Padania si sintonizzeranno su Radio 24. Va bene. Diciamo che ieri ho pensato come nel 2010 Luca Zaia dovette battere una dura opposizione. C'era un fronte unito contro Zaia, candidato governatore. Adesso capisco tante cose. Ah, capisci, ti riferisci a Galan? Mi sono venute in mente, sì, tante pressioni che c'erano anche, insomma, sulla Lega, su Berlusconi, affinché non si arrivasse alla candidatura unitaria di Luca Zaia. Però, insomma, ma il partito che aveva il tesoriere è quello di Genova. Baroni perché quello di Genova aveva il tesoriere. Ma lo fa di, però, per favore. Vincino si riferisce. Il più delinquente che c'era al mondo come tesoriere. Madonna mia. Riferisce a Belsito, Aurora, Lega che fu, Ancamo. Allora, nel 2010 Belsito Alghera no, c'era un altro tesoriere, Balocchi, quindi allora sulla storia della Lega parlo io, non Vincino, va bene? Ecco, bene, va bene, capito Vincino, silenzio tutti. Comunque Luca Zaia, a che ora è che ce l'avete? Che mi metto un appunto. Alle 8:35. Va bene. Allora no, questa roba, niente, sta roba del tesoriere è così, è Vincino, che devi fare? Vabbè, insomma, stavolta non c'è la Lega, dai, non vi voglio far litigare alle 6:30 del mattino. Per ora non è stata beccata la Lega. Vabbè, sentite Salvini, Salvini, la consolazione che non ci siano leghisti. C'è gente che evidentemente non si ferma mai, il cui appetito non si ferma mai, non voglio dare giudizi, ho le notizie sommarie che avete voi. Piccola consolazione, sulla vicenda Expo non c'era un leghista, qua dentro io su Luca Zaia metto la mano sul fuoco, non vedo nomi. Ecco, eccolo lì, su Luca Zaia anche lui è Aurora, ha messo la mano sul fuoco. Ma è una persona per bene, Luca Zaia, cioè, scusa, cosa deve fare? Ieri ha fatto una conferenza stampa, ha sospeso i dirigenti coinvolti, il suo assessore Chisso si è visto immediatamente sottrarre le deleghe, insomma, è lì operativo. Poi Consorzio Nuova Venezia, sapete bene che non dipende da Regione Lombardia, sì, dal Veneto. Governate dalla Lega. No, mi sembra strano che non ci sia qualche responsabilità anche di Maroni, magari di no. Ma al di là della politica, dai, usciamo un attimo dalle questioni della politica, ma tanto era trasversale di altri partiti, ma e poi c'è il garantismo soprattutto. Però io dico, ma forse ha ragione Vincino quando dice è facilissimo rubare. Evidentemente è facilissimo, no Vincino, è facilissimo. Cioè... Sempre con la satira, Sempre con la satira, ma ok. C'è Andreotti che è un po' triste perché l'aveva iniziato lui. Appunto, il busto di Andreotti, sì, cosa dice? Stamattina è un po' così, no, perché il MOS è il nome che gliel'aveva dato lui, sai, perché mica gliel'aveva dato Craxi questo nome, che gliel'aveva dato lui. No, come cosa? Vabbè, come dire, non è che. Tu non so se quel telefilm che Renzi consiglia di vedere, House of Cards. Questo qua, i lobbisti, così, quell'altro, la politica è questa anche, è anche questa, no? Bisogna contenere il più possibile questa parte qua, ma non è che non pensiamo che c'è, per esempio tu parli della Cina, chi parlava in Cina fanno in 6 mesi l'avrebbero fatto, la Cina è uno dei paesi più corrotti del mondo, ma anche dell'universo praticamente, la Cina, tutti i grandi così, presidente del Partito Comunista hanno miliardi e miliardi da tutte le parti, e mica se li sono fatti con lo stipendio partito, del partito comunista. Dice, chi se ne frega, devono fare un ponte, no, devono ancora rompere, tra, pam, ma via, giù un ponte. Devi facilitare, devi andare più veloce. Devi facilitare, hai capito Aurora? Qua, come dire, siamo obiettivi, la legge è così, come dire. No? Vabbè, però a me fa impressione sentire Nordio dire che sono gli stessi di vent'anni fa, sinceramente. Aurora, a te fa impressione? Voi leghisti che da Tangentopoli siete un po' nati, come dire, no? Sì, fa effetto sentire che siamo sempre lì. Guarda che sono peccati, c'era anche un sistema di finanziamento poi delle campagne elettorali del Partito Democratico, capisco tante cose, guarda, anche sul fatto che il male connaturato nell'uomo, quindi ontologicamente siamo portati al male, ok, ci sta anche una quota di farabutti, però i sistemi di controllo devono funzionare, ci sono le autorità pagate per vigilare sugli appalti, ci sono tante norme, e vanno gestiti meglio i grandi appalti, c'era l'obiettivo che forse cos'è del 2001, forse sì, a questo punto. Ha ragione Vincino quando dice che in Cina c'è tanta corruzione, ma le cose le fanno, no? Nel senso che ammettiamo pure una quota di corruzione che, ripeto, è connaturata nell'uomo, però le robe o vengono fatte oppure è meglio rispondere al sistema. Ma adesso arriva Cantone, ma tra l'altro ho letto questa sui giornali, abbiamo Cantone che fa un'intervista a Repubblica a 26 dipendenti, è la prima domanda di Repubblica. Anche troppi, come dire. No, dai, vabbè, adesso non esageriamo. E poi c'è l'autorità per i lavori, controllo degli appalti pubblici, c'ha 360 dipendenti, tu lo sapevi, Vincino, in via Ripetta. Vai sono gli enti inutili, no? Vai a fare un salto, sì, a Roma, Aurora. Non lo so, ma quello è un ente inutile totale, no? C'ha 360 dipendenti. Ho capito, ma che serve fare l'anticorruzione se abbiamo già un authority contro gli appalti, per il controllo degli appalti pubblici? Per questo Cantone con 20 persone, se sono 26 persone, sono brave. No? Come dire, 4 computer, 20 persone, riesce a fare molto di più delle 400. Il problema è voler fare le cose. Fai un giro in via Ripetta, vai a fare un'inchiesta in via Ripetta. Mi paghi tu, vado a via Ripetta, perché ci vuole il tassi per arrivare a là, mica ce l'ho a piedi, sono stanco, è una certa età. Sto facendo un libro che esce tra 9 giorni. Come un libro? A 9 giorni, un libro, un instant book con un editore vero in Italia. Su che? Sulla cavalcata su questa cavalcata pazzesca di questo qua che Renzi. 4 mesi si è fatto tutto quello che un politico dell'altrimenti avrebbe fatto in 5 anni. Ma quando esce questo libro? Dobbiamo parlare. 10 giorni in tutte le edicole d'Italia, 30... non so quanto, 40, 50 mila, 100 mila, non so. 100 mila copie, non lo so. Sì, so, un numero immane di copie là con una... Vabbè. Il primo lo daremo autografato a Aurora Lussana, così, per appianare un po'. Il dodicesimo, perché già i primi l'ho tutti impegnati. Ah, vabbò, il dodicesimo Aurora Lussana. Comunque, insomma, questa è la situazione, ci ha terremotato la politica, era un po'... E Aurora era un po' sgonfiata dopo le europee, non se ne parlava più. Però domenica sì, ci sono i ballottaggi, vabbè, non dire niente, no, siamo in par condicio, quindi non dire nulla, non... No, ma tanto non avrà nessun effetto sull'esito dei ballottaggi, non puoi dire neanche, non so, il nome di un comune dove si vota. No, si pensava che la vicenda Expo potesse incidere sul voto, non lo so, credo che alla fine ci sia una saturazione, quindi una saturazione. Allora rispondo al grillino di turno, ragazzi, cioè sono una roba incredibile quando ti si attaccano, come dire, con gli SMS e dicono il grano saraceno, ma li fai ancora parlare quelli del grano saraceno? No, ma infatti dice il grano saraceno, ecco, parlate ancora oggi del grano saraceno, mica parlate del Mose, del Mose, la corruzione, la vergogna. Vabbè, comunque lo vogliamo sentire quello del grano. Mangiare i pizzocchi in Valsellino. Ecco, devo dire che Aurora Lussana, un errore così sul grano saraceno, lei amante dei pizzoccheri, non l'avrebbe mai fatto. Nemmeno io, eh. No, vabbè, ma Vincino, ma una leghista vera con i pizzoccheri non l'avrebbe mai fatto. Sì, non ti danno neanche la tessera in Lega se non fai quell'esame lì. Esatto, esatto. Per pagare, paghi una quota, 20 euro, e poi esame sì. sui pizzoccheri e il grano saraceno. Quindi lei non ci sarebbe cascata. Sentitelo però l'onorevole Gallinella. Buonasera a tutti, sono Filippo Gallinella. Sicuramente questi giorni avrete sentito parlare di me per una mia gaffe su una PDL, perché si riportava che tutto il grano che facciamo in Italia, insomma, non è sufficiente a produrre la pasta che invece l'Italia produce. Per questo un terzo del grano viene importato. Nella stesura, invece di scrivere un terzo del grano è straniero, io non so per quale motivo, è stato, nelle varie battute, è stato scritto saraceno. È così, Vincino. Ma c'era pure uno spot dell'Agnetti, ma non so, di qualche altro, sì. dove si raccontava di questo grano che partiva dall'Ucraina, dalla Crimea, nel battello, e poi arrivasse in Italia. No, perché il grano duro buono lo fanno là, mica lo facciamo noi. È il grano. Peraltro, no, peraltro Galline... non è c'entra col grano saraceno, sì, però c'era uno spot proprio in tanti anni fa. Però è straordinario. Vabbè, ma non l'avrà visto questo spot, e poi succede. Però non si può, non si può neanche sorridere, non si può ridere di queste cose perché ti accusano di essere anti. Ah, metti in luce. Si chiama Gallinella, poi diciamo, là, mi mette dei problemi in famiglia. È lo stesso, no? Che, è lo stesso che, tra l'altro, allo stato civile rispose italiano. Certo, quando... no, perché... Ma succede, succede, si può sbagliare e si può anche ridere di queste cose, o no? Il problema è che là quelli sono tutti così, tutti eccolo lì, ecco, ignoranti, come dire. È come dire, ma meglio, vabbè, insomma, no, Vincino, no, ma come, no, tutti, no, ma chi dico, tutti no, deficienti, no, ignoranti, tutti, ma... questi qua, tutti i deputati MC 5 Stelle, guarda, ce n'è tre buoni su 200, insomma, tre, no, buoni. Aurora, sì, di qualcosa, sì, tu, sì, per par condicio, no, loro sono come gli orghi nel nome della rosa, non si può ridere perché ridendo ribalti il mondo e non hai paura di Dio. Ma grande, orghi nel nome della rosa, il riso, il chi è che ride qua, sì, chi è che ride, vedi, vabbè, perché dirompente il riso, no? Certo, non si può sorridere. Non hai paura di Dio, chi ride non ha paura di Dio. Va bene, con questa perla di Aurora Lussana andiamo al traffico. Italia ha votato, Renzi ha il 40, mica male, sono 10 in più di Rocco Siffredi, 10 in più. Fa 100 promesse o Renzi, e poi 1000, e poi altre 1000. Mescolale tutte insieme, così che nessuno possa contarle ed accusarti di promettere tanto e mantenere pochissimo. Il 2 giugno, vicino a Napolitano, tutti quei ragazzi giovani che fanno avanti e indietro col fucile, secondo me bisognerebbe mandarli a piantare patate. Cara mia Fornero, ho sulla spalle 40 anni di lavoro, vuoi che ne lavori 43 e poi mi penalizzi ancora? Togliti lo stipendio e vai a vangare te come vango io. Popolo di merda, sempre pronto a gridare Barabba, che ha paura della parolaccia, si spaventa di chi grida e promette giustizia. Popolo lecchino, incapace, che si lascia inculare dai tanti Renzi, ben educati, ma pronti democraticamente ad affamarti con gabelle varie. Viva gli anarchici! Una notizia bomba scoppia all'alba, e questa volta non è niente scialba. Sulla laguna ficcano in galera degli alti personaggi in fitta schiera. Di certo non può essere un'inezia, un triste carnevale di Venezia. Ciao Neda, felice Pautasso. Va bene, va bene. Allora Vincino, com'erano oggi? L'anarchico, ti è piaciuto? Dire, l'anarchico è un po' della parte un po' truce, però mi è piaciuta. Non è che, no, allora, no, perché sembrava un po' qualunquista all'inizio, poi dopo avessi scoperto che era anarco alla fine, perché sennò non sarei stato sicuro. Comunque, no, i veneti, secondo noi, a Venezia sapevano tutto da 30 anni. Tutti, anche le vecchiettine che vanno lì. Guarda questa immagine, prendi 10 miliardi di euro da Roma con una mano e ti sposti sino a Venezia e li metti nella laguna. Quanto ne perdi per la strada? Te ne scende un casino, come manco fosse grano saraceno proprio, no? Chi fa cose fa briciole poi, no? Vabbè. Comunque io avremo non solo Luca Zaia, capito Aurora, ma non l'avrai neanche scritto sul giornale, vergognati. Comunque avremo Luca Zaia alle 8.35. Poi alle 8.45 avremo ospite Paola Moschetti, che è la compagna di uno dei due Marò, Massimiliano Latorre. Perché attenzione, notizia, torna Casini in India. Cioè non tornano Casini, cioè torna Casini presidente della commissione esteri. Come o mamma? Dice vado a risolvere la situazione. Sì. Sì. Perché o mamma, Aurora? No, va bene, no, speriamo. Cosa devo dire? Sì, boh, speriamo. Che vada. Alla Mogherini no? Che vada in... portava Cuffaro andava meglio. Cosa c'entra Cuffaro? Cuffaro è un grande mediatore di queste cose qua, assolutamente. Datevi un po' di soldi a Cuffaro, vai in India e risolve tutto. È in carcere. E quindi non può seguirlo, diciamo. Mettiamocela così. Però in America riprendevano. Ma non è Cuffaro? Dico. Ho detto che io il Cuffaro dovevo andare in India. No, vada, Casini, no, porti Cuffaro. No, assolutamente. In America per risolvere il problema Sicilia presero nel 43, sì. 41, un po' di mafiosi dalla galera e li portarono in Sicilia. Li paracadutarono, e là proprio fu lo sbarco più facile del mondo. Comunque, guardate, cioè, è una situazione. Guardate qui, prendo il secolo XIX per dire delle ruberie, ma sempre in nome della satira, mica in nome perché siamo garantisti. Cioè, il figlio, il secolo XIX, leggo per pari, il figlio di Berneschi lo tradisce, ha rubato come un pazzo, avesse preso solo 2 milioni in un colloquio. Ma è un folle. Manco i figli ti aiutano più. Manco i figli, io non lo so. Ma che dobbiamo fare? Cioè, intercettazioni shock nel colloquio con la moglie detenuta. Anche mio padre ha rubato come un folle. Questo per carità. Non lo si può sapere. Scusa, di familismo morale, va bene. No, vabbè, ma era un colloquio intercettato, quindi insomma, però possiamo garantisti poi Vincino, cioè, no, non sarà così, sarà assolto sicuramente. Assolutamente sì. In realtà la condanna è già tutta qua, poi magari alcune di queste cose che escono sono frasi dette da uno che non c'entra un altro, sono chiacchiere, non lo so, il processo si fa nel tribunale, io sono il primo a dirlo, si costituiscono durante il processo, invece alla stampa, siccome siamo all'acqua alla gola, cerchiamo di fare i processi facciamo tutto prima e ci divertiamo un poco, diglielo. Allora Aurora, è il momento tuo, è il momento della ricetta con grano saraceno, ovviamente. Ti devo stupire, perché stasera esco a cena. No. E con chi esci a cena? Adesso ci facciamo un po' i fatti tuoi. E stasera mangio a una festa della Lega a Pugnano, in provincia di Pesca. Vincino, a una festa della Lega dove? Pugnano, in provincia di Bergamo. Vincino, conosci Pugnano? Ma non lo invitate? No, non lo invitate Vincino? Vincino, sì, l'auto con cosa da Roma sino a là, guarda, non è che l'elicole, ma non è ci sarà l'aeroporto a Pugnano, dai, su. Arrivo c'è l'aeroporto di Orio al Serio, non è difficile. Certo, straordinario, esatto. Aeroporto di Orio al Serio. Orio al Serio, track Pugnano. Chiamato anche Caravaggio. Viene su, io lo ospito, se viene volentieri. Vincino, sei ospitato a spese della Lega, non hai capito? No, della Lega,

perché fingeva di aver sostenuto delle spese e in realtà queste spese non solo non erano state sostenute, ma venivano retrocesse a loro volta alla società stessa, che con quelle pagava le tangenti, però le deduceva dal punto di vista fiscale. Quindi alla fine le tangenti le ha pagate l'erario, che non ha incassato questi soldi. Insomma, tradotto ancora più brutalmente, quelle tangenti le abbiamo pagate tutti noi cittadini, questo secondo il procuratore Nordio. Voglio salutare Alessandra Moretti, capo eletta eurodeputata, buongiorno al Parlamento Europeo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Del Partito Democratico. Saluto anche Sergio Berlato, che è stato eurodeputato, poi non è entrato nelle liste all'ultimo momento. Berlato, buongiorno. Buongiorno in Forza lei, Italia. Buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori. Ecco, perché tra l'altro lei ha fatto una serie di denunce da tempo a dire venga fuori, scoperchiamo questo sistema e tra poco ci spiegherà cosa. Intanto, onorevole Moretti, le chiedo perché adesso danno Renzi per furioso, furioso dopo questa vicenda, quella dell'Expo, perché dovremmo davvero pensare che si può cambiare qualcosa? Perché in Italia sembra che associare opere pubbliche a fenomeni di questo tipo è una cosa che è talmente scontata che quasi la gente la dà per una questione a cui rassegnarsi. È evidente che siamo tutti sconcertati, insomma, cioè ci rendiamo conto e c'è una nuova classe dirigente che secondo me oggi si sta rimboccando le maniche e sta cercando di mettere, no, dare un taglio netto rispetto al passato, riportare la politica alla sobrietà, all'onestà. Beh, siamo sconcertati perché è evidente che questi fatti danneggiano tutti, in primis danneggiano l'immagine di Venezia. Che lei sa che oggi si apre la Biennale Architettura, abbiamo gli occhi del mondo puntati addosso e l'amministrazione veneziana, che si è sempre, come dire, no, comportata in maniera trasparente, è stata danneggiata pesantemente da questa vicenda. È furioso perché ci rendiamo conto tutti che la corruzione è il vero male dell'Italia, cioè la corruzione è la zavorra che ci frena. E come la si contrasta? Ma guardi, io credo che quello che sta facendo oggi il governo per la prima volta dopo la legge Severino, che ha attuato una serie di strumenti utili, no, per mettere a punto il sistema di anticorruzione, il governo oggi ha proprio istituito un'agenzia a cui capo appunto c'è il magistrato Cantone, il quale avrà poteri rafforzati e quindi potrà ampliare i controlli. Ecco, dovrebbero essere dati poteri totali, perché per esempio oggi il Fatto Quotidiano scrive c'è già un'authority, l'authority per il controllo degli appalti pubblici con 330 dipendenti eccetera, invece dovrebbe essere tutto accentrato a Cantone secondo lei? Ma bisogna, ovviamente Cantone avrà dei poteri rafforzati in materia proprio di anticorruzione, in materia di appalti, per fare in modo che le regole siano assolutamente stringenti per quanto riguarda la correttezza e la trasparenza. È assolutamente necessario rivedere poi tutta la normativa appunto sugli appalti pubblici, rendere chiare e semplici le procedure di appalto, creare una white list delle ditte delle imprese trasparenti e sane che hanno operato in maniera pulita, dare anche parallelamente una blacklist delle aziende invece coinvolte, certo, in atti di corruzione. E poi bisogna ridurre le stazioni appaltanti ed evidentemente però andare avanti anche come governo sta facendo sul DDL corruzione, che prevede, guardi, per la prima volta il reato di autoriciclaggio, un reato permanente che elimina di fatto il problema della prescrizione, introduce il falso in bilancio, altro reato che il governo Berlusconi aveva eliminato. Ecco, io credo che questi siano provvedimenti, certo, provvedimenti che vanno fatti. Io vorrei da Sergio Berlato. Berlato, lei ha fatto anche parte di un sit-in davanti alla Procura di Venezia mesi fa e ha portato anche documenti, ha fatto denunce alla Procura di Venezia per dire scoperchiate il sistema e non mi importa, lei ha sempre detto, di quale partito facciano parte le persone che fanno parte di questo sistema. Oggi si sente più contento per avere previsto quella che potrebbe essere un'ipotesi che lei ha prefigurato, oppure più sfiduciato da tutto quello che sta succedendo? Guardi, io innanzitutto credo sia importante non perdere la capacità di indignarsi di fronte a queste cose, non abituarsi al fatto che così fanno tutti e quindi tutti colpevoli, nessun colpevole. Io sono anni che denuncio l'esistenza del malaffare non solo in Veneto ma in tutto il nord Italia. il sistema del malaffare che coinvolge purtroppo esponenti di diversi partiti, sia di centrodestra che di centrosinistra, che pur militando in partiti diversi ma sono accomunati dalla loro appartenenza al sistema del malaffare, che coinvolge sia imprenditori ma coinvolge anche politici. E purtroppo, se questo sistema è rimasto in piedi negli ultimi 10 anni, probabilmente è perché chi doveva controllare non ha controllato, o meglio, alcuni di coloro che dovevano controllare facevano parte del sistema. A chi si riferisce? Abbiamo chiaramente la necessità di verificare dalle prime carte che emergono, rese pubbliche dagli inquirenti. Ci sono addirittura degli alti esponenti della Guardia di Finanza, e con questo non voglio minimamente che sia intaccata l'immagine della Guardia di Finanza. La responsabilità penale è personale, se accertata. Sono stati dei valorosi finanzieri che hanno avuto il coraggio di affrontare questo malaffare e di rendere poi noti gli esiti che noi tutti conosciamo, ma conosciamo solo in parte, perché io mi sono esposto personalmente, non è che ho mandato lettere anonime. Io in questi anni sono andato personalmente più volte in procura, ma certo. Che effetto le fa? Ecco, le chiedo una corposa documentazione. Che effetto le fa sentire che i cittadini, come ha spiegato il magistrato Nordio, pagano, perché erano truffe all'erario di fatto, quindi non incassi da parte dell'agenzia delle entrate? Io quando sono andato a fare il sit-in assieme a tutto il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale davanti alla Procura della Repubblica di Venezia, non sono andato per contestare il lavoro della Procura o per chiedere venisse fatta un'azione politica a danno di un avversario politico, sono andato a chiedere venissero resi noti i nomi di tutti i malfattori. Io ho denunciato il malaffare, spettava agli inquirenti, dopo aver verificato come stavano le cose, rendere noti i nomi dei malfattori, e alcuni di questi malfattori sono stati individuati. Dico alcuni perché ritengo che quando verrà resa nota l'intera questione, sarà peggio. E io ritengo, se le notizie che sono in mio possesso sono poi confermate, Tangentopoli 2, come viene chiamata, sarà di dimensioni notevolmente peggiori rispetto a Tangentopoli del 92, perché non è ancora stato reso noto quanto sta succedendo ed è successo negli ultimi anni nella sanità, partendo dal Veneto. Non è ancora stato reso noto quanto gira attorno alla project financing. Non è ancora stato reso noto ciò che ruota attorno ai lavori giustificati con la somma urgenza e con assegnazione diretta senza... Quindi lei dice ne scopriremo delle belle o delle brutte dal punto di vista... Purtroppo ne scopriremo delle brutte, e questo lascia veramente molto tristi, non tanto per l'immagine di Venezia che comunque ne subisce un danno, ma per il fatto di constatare che i soldi dei cittadini che hanno pagato in tasse sono finiti lì, anziché essere utilizzati per garantire servizi di pubblica utilità, sono utilizzati per garantire l'arricchimento di pochi soggetti con la connivenza di alcuni politici corrotti e ladri. Queste sono le denunce che lei, devo dirlo onestamente, aveva già portato alla procura un po' di tempo fa. Onorevole Moretti, le chiedo, mi imbarazza ovviamente la questione che coinvolge anche politicamente Orsoni, un sindaco importante del Partito Democratico, che aveva fermato l'onda di Brunetta, no? Imbarazza, e come va gestita secondo lei all'interno del partito? Ma intanto è bene che si faccia chiarezza, e secondo me il procuratore Nordio ieri ha fatto molto bene convocando una conferenza stampa ed evidenziando che ci sono responsabilità profondamente diverse rispetto alle posizioni dei singoli indagati. Orsoni è indagato per un finanziamento illecito, è un reato per il quale pagherà. Giancarlo Garan è imputato per corruzione e pare che percepisse 1 milione di euro l'anno per garantire un sistema di appalti. Orsoni non è coinvolto nella vicenda della corruzione, ma è coinvolto in una vicenda di finanziamento illecito. C'è anche da dire che l'amministrazione di Venezia è salda, non è coinvolta nella vicenda della corruzione. Facciamo questa, perché altrimenti mettiamo in panico, no? E destabilizziamo l'intera cittadinanza. Qui ci sono amministratori onesti, puliti, che ovviamente subiscono un contraccolpo pesantissimo in queste ore, stanno vivendo ore drammatiche, però è bene anche che noi andiamo a distinguere le posizioni. Dico però un'altra cosa: io credo che il governo Renzi stia facendo molto bene nel procedere rapidamente con il decreto sulla corruzione e anche dando a Cantone poteri assolutamente rafforzati. C'è però da dire una cosa, e Berlato in questo ha ragione: dire che tutti sono ladri e che tutti sono uguali è il miglior modo per non individuare le responsabilità. No, su questo sono d'accordo. Infatti, i ladri ci sono pochi rispetto ad una stanza di onesti e vanno puniti e allontanati dalle istituzioni pubbliche. Io vorrei ricordarle, perché so che lei, voglio dire, guarda anche alla storia e ha, diciamo così, rispetto per la nostra memoria. Nell'81, ad un'intervista a Eugenio Scalfari su Repubblica, Enrico Berlinguer denunciò, no, il fatto che i partiti e la politica, certo, avevano occupato lo Stato, le istituzioni, le università, i comuni, i giornali e la stessa RAI. Ecco, io credo che da qui dobbiamo partire, dalla questione nuova. C'è una nuova classe dirigente però che sta dando un distacco, diciamo, netto rispetto al passato, mm-hmm, e che vuole invece riscattare la politica, no, restituire credibilità. Sicuramente mettere diciamo tutto nel calderone, questo assolutamente no, e non va fatto. Berlato, nel ringraziarvi e salutarvi, dopo la pubblicità vi ricordo tra 5 minuti avremo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Berlato, le chiedo in maniera flash: secondo lei non è stato rimesso in lista per l'europarlamentare per queste denunce? Si è parlato molto del fatto che lei cacciatore, Dudu, eccetera. No, invece, Dudu non c'entra nulla. Il vero motivo per il quale io, essendo sempre stato uno dei più votati al Parlamento europeo, sono stato all'ultimo momento escluso dalla lista di Forza Italia, è proprio perché ho osato denunciare il sistema del malaffare. Mi è anche stato detto che le mie denunce avrebbero comportato un danno per l'immagine del partito. Quindi questo è il motivo, lei dice. La cosa strana che trovo adesso nella lista degli arrestati, una parte di coloro che hanno preteso e ottenuto la mia esclusione dalla lista per il rinnovo del Parlamento europeo. Ecco, va bene. I nomi li vuol fare, anche se possiamo immaginarli? Basta solo scorrere l'elenco degli arrestati e li troverete in maniera molto chiara. Molto chiara. E questi sono alcuni di questi rimessi in lista anche per quanto riguarda il nuovo Parlamento europeo, e hanno escluso uno dalla fine penale perfettamente pulita. Io sono veramente un cacciatore, perché ai cacciatori, se non hanno la fedina penale perfettamente pulita, non viene licenza, dato il porto, certo, d'armi. Io sono stato escluso e quelli che sono nella lista degli arrestati sono stati invece riconfermati. Allora, io ringrazio Sergio Berlato, ringrazio l'onorevole Alessandra Moretti, Partito Democratico, e tra 5 minuti dopo la pubblicità Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:38 minuti, con noi c'è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia della Lega. Buongiorno governatore, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Perché lei stesso ha definito inquietante il risveglio di ieri, ha sentito il PM Nordio dire torna Tangentopoli, forse anche peggio, le stesse facce. Intanto presidente Zaia, è stato arrestato anche un assessore regionale, 3 dipendenti della regione. Lei dice la regione non c'entra però la regione come istituzione? No, guardi, c'è bene da chiarire anche a favore dei cittadini che ci ascoltano. Stiamo parlando di un'inchiesta, lo dicono i magistrati, che poi parla di fatti che partono dalla notte dei tempi, parla degli anni 90, che si sono trascinati fino ai giorni nostri. Se fosse dimostrato fino in fondo l'impianto accusatorio, stiamo parlando di soldi ottenuti da un'opera pubblica, che è un'opera statale finanziata dallo Stato. E glielo dice una persona che ha presentato quasi un centinaio di esposte in 4 anni e che ha evitato la formazione di qualsiasi substrato in tale direzione. Prova ne sia che nelle intercettazioni viene proprio fuori, dicono è arrivato Zaia e ha cambiato il mondo. Perché ha sospeso l'assessore Chisso? Ma perché a me sembra, guardi, i processi si fanno nei tribunali e io sono rispettoso anche umanamente di tutte le persone, però il segnale di discontinuità è fondamentale. Alla luce dei fatti e degli atti che abbiamo, i 3 dirigenti e l'assessore sono ovviamente sospesi. Ho fatto il decreto ieri. Hanno chiesto però alcuni esponenti del PD anche le dimissioni sue, un po' craxianamente avranno pensato non poteva non sapere il presidente di quello che faceva l'assessore. Ma guardi, anzitutto queste sono indagini, sono durate 5 anni, uno spiegamento di forza è pauroso, per cui guardi, non è. E riuscire a sapere che negli anni 90 c'erano degli accordi per cui c'era qualcuno che prendeva soldi, io negli anni 90 andavo a scuola, faccio un po' lei. Però le dico anche una cosa, che lascia l'amaro in bocca vedere un partito, per fortuna i PD non sono tutti così, che ha avuto arrestato il suo sindaco di Venezia, quindi gli arresti domiciliari, l'ex capogruppo del PD in consiglio regionale, anche lui con gli arresti, quindi oggetto di provvedimento restrittivo, e invece di parlare del loro problema chiedono le dimissioni dell'unica persona peraltro che si è comportata con correttezza, legalità, ed è stata certificata questa legalità dai stessi magistrati. Penso che veramente c'è gente che è senza vergogna in giro per l'Italia. Senta Zaia, gli italiani pensano... Mi scusi, pongo un'altra riflessione. Se fosse vero per la proprietà transitiva che una persona ci vuole discontinuità, penso di rappresentarla, visto considerato che non c'entro niente questa vicenda. Ma dico ancora di più, se fosse vero per la proprietà transitiva che mi devo dimettere, mi chiedo come mai non si chiedono le dimissioni magari anche al Premier, al Presidente del Consiglio, che altri, visto considerato che assieme al mio assessore e i dirigenti sono stati arrestati dirigenti di caratura nazionale, persone pagate e dipendenti dello Stato, a questo punto ne viene fuori uno scenario che dove tutti sono responsabili, invece non è così, ci sono gli onesti e i disonesti. Consola, come ha detto il segretario della Lega Salvini, che non ci siano leghisti coinvolti, la consola, oppure come presidente della Regione Veneto in questo momento è anche preoccupato per l'immagine, cioè immagini, non so, Venezia in questo momento ha il sindaco arrestato, Venezia è un simbolo nel mondo, no? Beh, guardi, e io le dico, l'ha citata lei la Lega, e io in queste ore, in questi giorni, ma proprio per metodo non lo faccio mai. Ieri non mi sono presentato alla stampa dicendo rappresento l'unico partito che non c'entra nulla in questa inchiesta. Penso che il conto è un conto amaro che paga la nostra comunità, e i veneti in questo momento stanno vivendo una pagina buia della storia. E poi ben venga che il mio partito non sia citato, minimamente citato, addirittura chi pagava o chi diceva di pagare, perché poi qua siamo ancora in un'inchiesta aperta, dichiara anche che i leghisti non li ha neanche visti in fotografia. Però è altrettanto vero che questa è una brutta pagina di storia, spero che la si chiuda velocemente, anche perché i veneti hanno bisogno di tornare alla serenità. Il MOSE deve andare avanti, oggi i giornali raccontano doveva finire nel 95, così disse sempre Craxi, e si sono spesi miliardi, è durato decenni, però lei dice non si può bloccare tutto, immagino. Ma guardi, sempre a beneficio dei cittadini, è un'opera che è realizzata in concessione da un gruppo di imprese, perché questo è il primo problema, ed è una concessione statale, non c'entra nulla la regione. È un'opera che anch'io ho visto, come tutti i cittadini, praticamente quasi realizzata, perché poi ci sono delle aziende metropolitane, questa è un'opera che avrà 40 anni, immagino, giù di lì, nasce come opera affidata direttamente dalle imprese, non con una gara, questo è bene ricordarlo. Imprese che comunque sono arrivate ai giorni nostri, io sono diventato presidente nel 2010, vorrei ricordarlo, con un'opera pressoché quasi totalmente finanziata, tant'è vero che la deadline per l'inaugurazione del MOSE ci dice che sarà intorno al 2016. Nel 2016. Gli italiani pensano però dove c'è un'opera pubblica comunque c'è corruzione, come si fa a contrastare questa idea? Ma guardi, io l'ho fatto in maniera anche evidente e penso proficua. Vorrei ricordare che questa inchiesta non riguarda cose che sono nate su un substrato durante la mia amministrazione. Cioè, se fosse vero quello che è scritto, cioè, qui si parla addirittura di persone stipendiate da una vita rispetto a si parla dagli anni 90, i magistrati scrivono, no? Sì. È altrettanto vero, lo si capisce nell'intercettazione che si dice innanzitutto che le cose sono cambiate da quando sono arrivato. I provvedimenti che ho fatto per fare in modo che comunque ci sia un controllo rigoroso, tant'è vero che nell'intercettazione viene fuori ad esempio che le delibere non vanno più avanti, come mai stanno ferme le delibere? Perché? Perché noi abbiamo avviato un controllo, un settaccio totale. E dall'altro, guardi, chiunque può contattare la Procura di Venezia per fatti che non c'entrano niente anche con questa vicenda, un centinaio di esposti li ho fatti io personalmente. No, ma su questo però è chiaro, però gli italiani capisce, dicono ma com'è possibile che dopo l'Expo, ora il MOSE, poi chissà tutte le altre opere pubbliche, cioè c'è corruzione ovunque. Guardi, gli italiani hanno ragione, perché penso che sia endemico questo aspetto, ma le dirò anche di più, mi permetto di dire, nel momento in cui l'amministratore capita spesso di firmare i protocolli per la legalità, è il segno di una malattia, no? Perché se c'è una legge, se c'è il limite di velocità a 130 all'ora, non capisco perché devo firmare il protocollo il rispetto del limite di velocità, c'è la legge rispetto alla legge. Quindi è un paese malato, però altrettanto vero che i cittadini devono capire che se facciamo una battaglia per la legalità, per l'onestà, devono anche iniziare a vedere quali sono le persone oneste e quali no, perché sennò altrimenti finisce sempre che buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. L'ultima domanda che le faccio è sul suo predecessore Galan. Lei, voglio dire, ci fu anche per la candidatura una battaglia politica nel 2010. Che effetto le fa sentire oggi di stipendio da €1 milione l'anno, insomma, nei confronti di Galan? Guardi, io ho evitato sempre di parlare del mio predecessore. Ha dispensato consigli a tutti noi in tutti questi anni. Dico che se questo fosse vero, la vicenda è assolutamente inquietante. Però ripeto, i tribunali si occupano dei processi. Io spero che questa vicenda venga chiarita fino in fondo, lo si faccia in tempi assolutamente rapidi, nell'interesse prima di tutto dei cittadini e poi degli indagati. La ringrazio, buona giornata ovviamente. Grazie a Luca, Zaia, governatore della regione Veneto. Noi dopo il traffico avremo invece in diretta, cambiando tema, Paola Moschetti, che è la compagna di Massimiliano Latorre, uno dei due Marò in India da 2 anni, per i quali non si riesce davvero a risolvere una vicenda intricata. Tra poco. Eccoci qua, sono le 8:48 minuti, noi vogliamo chiudere questa puntata di 24 mattino con gli ultimi minuti dedicandoli alla vicenda dei due Marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che dal 15 febbraio 2012 sono in India. Certo, sono tornati in Italia anche temporaneamente, ricordate, ma della cui vicenda davvero non si riesce a venire a capo come soluzione. Con noi c'è Paola Moschetti, che è la compagna di Massimiliano Latorre, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno e benvenuta, signora. Buongiorno. Allora, tra l'altro di ritorno dall'India pochi giorni fa, com'è l'umore? È la domanda che tutto il paese si chiede del suo compagno, ma anche di Girone. L'umore del mio compagno è sicuramente speranzoso per una risoluzione pronta di questa situazione, anche per i cambiamenti che sono in corso. Ma lei sente il sostegno del paese, degli italiani? Spesso molti dicono abbiamo dimenticato i due Marò. Sente il sostegno degli italiani o dell'opinione pubblica oppure no? Guardi, il sostegno degli italiani non è mai mancato in questa vicenda, non sono mai stati dimenticati e tante manifestazioni di affetto e di solidarietà si susseguono con cadenza quasi quotidiana. Quindi lo sente. Per esempio il sindacato della Marina, il COCER della Marina, ha chiesto addirittura che la nazionale italiana esponga, credo, un fiocco giallo per il mondiale. Lei e voi vi aspettate un'iniziativa di questo genere, che sarebbe, come dire, con una rilevanza mondiale, oppure voglio dire, è troppo, non sperate di arrivare a tanto? Guardi, sicuramente per noi sarebbe una cosa molto bella, perché farebbe varcare i confini nazionali a questa vicenda anche a livello mediatico, per cui se dovesse accadere sarebbe un grande regalo. Un grande regalo, a cui sperate. Io le faccio sentire ciò che il ministro degli esteri, Federica Mogherini, ha detto qui ai nostri microfoni quando l'ho ospitata una decina di giorni fa. Ho fatto proprio una domanda al ministro degli esteri sulla vicenda di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, e lei, nello spiegare che si sta internazionalizzando questa vicenda, questa è la strategia del governo Renzi, ha detto però anche questa frase. Non sarà presumibilmente un percorso facile né un percorso particolarmente breve, spero di poter essere smentita, ma penso anche che dobbiamo essere realisti e dire la verità sia a loro che agli italiani. Insomma, signora Moschetti ha detto non sarà un percorso facile e soprattutto non sarà un percorso breve. Voi come avete colto e raccolto questa dichiarazione? Wind. Eccoci qui, è caduta la linea. Vediamo se riusciamo a recuperare la linea con Paola Moschetti, che voglio ricordare è la compagna di Massimiliano Latorre, che si trova in questo momento in India insieme a Salvatore Girone. Sono i due marò, i due fucilieri della Marina, che sono accusati in una azione antipirateria di avere ucciso due pescatori. Per questo sono in India dal 15 febbraio 2012, erano stati presi al largo delle coste del Kerala sulle riche su cui incrociavano in un'azione di pirateria. Sono stati portati, poi sono stati convinti, è stata convinta la nave a entrare nel porto di Kerala, e da quel momento ovviamente c'è una crisi diplomatica in corso. Ecco, forse abbiamo recuperato la linea con Paola Moschetti, eccoci qua. Forse non so se ha colto le parole che abbiamo dato del ministro degli esteri, che dice non sarà una vicenda facile e breve. Voi come reagite? Guardi, del fatto che non sia una vicenda facile ne siamo a conoscenza, lo siamo sempre stati. Io posso solo dire che voglio ringraziare il ministro Mogherini per quanto si sta adoperando per la risoluzione di questa vicenda, per come è vicino a noi da tanti punti di vista. Tra l'altro sa che molte persone dicono ma insomma in questa vicenda però ci sono due persone indiane, due pescatori che sono rimasti uccisi. I vostri compagni, i vostri mariti però si professano innocenti da sempre, questa è la linea che mantengono? Assolutamente, perché è la linea reale. Loro sì, sicuramente, non avendo responsabilità in questa vicenda, si dispiacciono, però come umanamente si può dispiacere un qualsiasi cittadino. Loro sarebbero pronti però in Italia magari a essere sottoposti a un processo per queste accuse? Guardi, non sono affermazioni che posso fare io, comunque queste sono cose di cui si occuperà chi di dovere. Questo certamente. Riguardo, io so che lei sta organizzando una manifestazione, è vero? È così, per metà giugno? Il 14 giugno. Il 14 giugno. A Roma. Che tipo di manifestazione? È un corteo pacifico, di natura assolutamente apolitica, che partirà alle ore 17 da Piazza Bocca della Verità e poi si snoderà per le vie della città, con il solo scopo di far sentire solidarietà ed affetto da parte degli italiani ai due fucilieri di Marina. Quindi è un corteo di solidarietà, cioè per far sentire la vicinanza. Perché hai scelto questa data? C'è un motivo particolare oppure e cosa soprattutto vi aspettate di ottenere da un corteo del genere? Questa data non ha una scelta motivata, e quello che ci aspettiamo è di mantenere sempre alta l'attenzione su questa vicenda. Sperare insomma che non vengano dimenticati. Secondo lei sono stati un po' dimenticati? No, io penso di no, assolutamente. Pensa di no. E no. La domanda più difficile che le voglio fare non è né un pronostico, è più che altro un augurio, una speranza, è quando davvero voi pensate che possa risolversi questa questione, cioè almeno che possano essere riportati in Italia, poi se ci dovrà essere un processo ci sarà. Ma quando avete la sincera speranza di poterli rivedere qui in Italia? Guardi, al più presto, però fare un pronostico sarebbe azzardato comunque. Sarebbe azzardato, insomma si spera che i tempi non siano così lunghi come purtroppo anche il ministro degli esteri ha detto potrebbero esserci. Io intanto la ringrazio per essere stata con noi. Paola Moschetti, voglio ricordare, la compagna di Massimiliano Latorre, uno dei due marò che si trovano dal 15 febbraio 2012, nonostante una temporanea presenza, ricordate quando c'era il ministro, quando c'era il governo ancora Monti, furono riportati in Italia per una licenza credo a Natale, ma poi furono riportati in India. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti in redazione, insieme ad Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi e Pietro La Corte in regia, e che dire, l'appuntamento è rinnovato a domani? Sì, che giorno è domani? È venerdì, quindi siamo in onda alle 6:30, a domani.